un clima di violenza, perché fino a ieri è stata una protesta pacifica, adesso non lo è più. Qualcuno si fa male veramente. Sì, questa è la prima volta che hanno usato violenza. No, fino a ieri era, fino all'altro ieri è stato un cordone di contenimento, diciamo. Ma ieri hanno caricato, cioè è arrivato l'ordine, capito? Che noi ci dovevamo mandare di che stavano dando fastidio, capito? Quando hanno caricato i camion erano entrati. Però già avevano scaricato, Noi siamo stati i primi che ci dichiarano, noi siamo i primi che fumo bloccati, se vi ricordate, non ci vediamo più. Poi dopo di noi, ho fatto la carica, è successo un casino. Poi quella signora con i capelli scuri è caduta a terra. Sì, l'hanno trascinata con i capelli. Loro erano il doppio tre volte dei dimostranti, capito? Mandavano indietro i giornalisti più che altro. In mezzo alla strada lì, è passata la macchina della polizia, ha buccato una ruota. La cosa più stupida che si sono messi a cambiare la ruota, e non c'aveva una ruota di scorta, è tutta pigliata per il culo. E questi sono sentiti umiliati. La polizia, e tutti che li pigliavano per il culo, sono sentiti umiliati, ma come, la pattuglia della polizia non ne manca ruota di scorta, tutti combinati. Hanno chiamato i rinforzi e qui danno la notizia che i dimostranti avevano buccato le gomme alla polizia. Incazzati neri, gomme hanno buccato le ruote alla macchina della polizia. Ma quello da solo ha buccato. Ha buccato la macchina da solo quello. Voleva passare in mezzo ai detriti. Quindi c'erano tutti i detriti in mezzo alla strada, sa che spazzatura. E quello lì ha buccato. Nessuno gli ha buccato le ruote. Il dimostrante l'ha buccata la macchina con la polizia e il settore qua ha detto avete fatto rotto grosso, avete buccato le rotte la macchina della polizia, mo non abbiamo più nessuna responsabilità noi, mo vi attacchiamo. Ma quanta gente c'era ieri? Eravamo poco. Ma non lo stavamo, ma poi non pacificissimo. No, stavamo come detto, il camion non va passato dopo pranzo, qui ero verso le 3:30 e 4, che ora era? Quando dovevano riuscire. Stavamo non dicevamo. Hanno visto montare il gazebo, è arrivato l'ordine, dai, dategli la carica, caricateli tutti quanti, non li voglio più vedere qui davanti. Senza niente, non è che dice li abbiamo sgombrati perché. No. C'era caricato direttamente, senza nessuno. Neanche a dire dovevano passare i camion, li abbiamo fatti spostare, niente, una carica così assurda, così senza giustificazione, senza niente, ma poi con una bestialità di questi poliziotti, proprio senza nessuna pietà, senza pietà. E mentre era lì che mi spaccava la telecamera, mi ha girato tutto lo schermo, ma perché? Sì, ma proprio ci ho fatto dalle mani, mi ha graffiato tutto per la mia telecamera. E io addirittura dietro il poliziotto, dove c'era il controllo di Sky, che era lì, lì c'era l'operatore Sky con la telecamera in diretta, aveva un cavo, 3 metri di cavo, e io lo tenevo perché tentavo di andare più avanti con il cavo, gli dicevo fermati che era finito il cavo, e io riprendevo tutte le immagini dei poliziotti che prendevano a calci le persone erano tutte buttate a terra, che si tenevano così, braccio con braccio, buttati per terra per essere più forti in modo che non tagliavano, non tirano. Quelli per farsi togliere le mani, pigliavano a calcio a tutti, io lo riprendevo, alla fine mi era arrivato uno, alto, grande e grosso, pelato, mi ha preso la telecamera, che fai tu? Che fai? Sto riprendendo le immagini e mi ha dato uno schiaffo. Uno schiaffo? Sì, come così è arrivato un altro collega, ha detto acchiappa questo, carico le macchine, mi ha dato altri 2 calci mentre stavo salendo dentro la macchina, ma proprio nessuna reazione abbiamo avuto. Per curiosità, ieri ti hanno portato in caserma e che cazzo ti hanno detto? Niente, per 4 ore ci hanno fatto fare su e giù, da un ufficio all'altro, tutti i piani, fino al piano sotto, non sapevano dove metterci perché c'avevano la questura al buio, erano senza luce in questura. Non era una pava dell'enne. Non lo so, dice che al mattino hanno avuto un cortocircuito e è andata via la corrente tutta la questura. Non sapevano dove metterci, non sapevano per cosa ci avevano portato là, ci hanno consegnato dentro una pattuglia, prima che passava, adesso portateli in questura, non sapevano chi è che ha dato l'ordine di portarci in questura, per quale motivo eravamo là, non sapevano niente. Ma perché l'hanno preso a te, non a dire? A me, perché io stavo riprendendo, stavo riprendendo, all'assessore del comune di Parete, a lui l'hanno preso perché lui ha visto il cugino che stava a terra, stavo riprendendo i calci, lo stava tirando via, e niente, è passata al signorino signorina bionda là che ti ho detto prima, ha detto a questo portatelo in caserma, portatelo in questura pure a questo. Ed è un assessore. Mentre si arriva in macchina l'hanno riempito di calci, pure a lui, senza motivo, così. Lui quando ha detto che dovete andare in questura, non ha fatto nessuna resistenza, nessuno sfogo sì, verbale. Non c'è niente da nascondere. Non è che ci ha messo lì a insultarmi in questura, cioè, però certamente, portatemi qui, io non c'ho niente da nascondere, i documenti stanno qua. Se mi vuoi portare in questura, portami in questura. Mentre salivo in macchina mi hanno riempito di calci. Ma perché? Allora vedi che le cose pacifiche non vanno bene, vogliono proprio una resistenza di forza in modo che si possano sfogare di più, in modo che più giustificazioni per continuare a fare quello che fanno, dai un motivo di pagare non so quanti cazzi militari che pagano nulla, sta qua a fa niente, se ci pensi. Stanno arrivando i turni da tutta Italia, sì, che fanno girare, sì, sì. Fanno girare da tutta Italia. Sì. Un'altra cosa, una volta che indossano l'elmetto e hanno lo scudo, sono tutti uguali, è una cosa vietatissima. Tu devi avere un riconoscimento tuo personale che ti possa identificare, o un numero sull'elmetto o sulla divisa. E poi io ti devo identificare, non che arrivi lì come terrorista, mi picchi, mi massacri, non so chi è che mi ha picchiato. Chi è stato? La polizia? La polizia anche si nascondono di questa roba qua. Però tu non ti puoi mettere il fatto che in faccia che sei un terrorista, perché non ti possono identificare. E come? A me mi devi identificare, io non devo identificare a te. È una cosa fuori legge, ma siamo qui pacificamente, non devi avere niente da nascondere tu, niente da nascondere io, non sto facendo niente di male, sto facendo una dimostrazione pacifica e non mi devo nascondere dietro un fazzoletto, e lo stesso tu non devi nascondere dietro nel metodo che non si può riconoscere, metti un numero, fatti riconoscere. Dice, ma noi dobbiamo eseguire gli ordini. Ho capito, allora digli al tuo comandante che l'ordine non lo puoi eseguire, perché per eseguire quell'ordine devo massacrare le persone che stanno a terra, che stanno manifestando pacificamente. Come faccio a eseguire quest'ordine? Massacro queste persone, vi pigliate voi responsabilità. Non mi dare l'ordine solo a volte, dammi un ordine scritto allora, altrimenti io mi rifiuto, fai quello che vuoi.